Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vincenzo Nibali, parte Nibali con Valverde e Port che sono i primi a rispondere a questa azione del siciliano. Niente da fare per ora per Purito Rodriguez che non ce la fa a tenere il ritmo dello squalo, i denti di uno squalo anche disegnati sul telaio della bicicletta di Vincenzo Nibali che è ai meno 500 metri. Vincenzo Nibali che va a conquistare la seconda vittoria alla Tour de France e si rimette sulle spalle la maglia gialla. Oggi è il giorno di Nibali che è su tutte le prime pagine italiane. Nibali, le mani sul Tour, lo squalo italiano, la magnifica impresa di ieri in una tappa, in un Tour de France caratterizzati anche dal dramma degli altri due di Froome e di Contador che hanno dovuto lasciare, hanno dovuto abbandonare per le cadute. 800 24 00 24, noi partiamo da qui, da Vincenzo Nibali, Franco Piantanini autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Robby Scaltritti in regia. Siamo in onda fino alle 15, un'ora, perché andremo avanti così per tutta l'estate. Però partiamo da Vincenzo Nibali e dal nostro Pier Augusto Staggi. Ciao Pier. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Hanno scritto oggi in tanti le mani sul Tour di Nibali. Questo è già il Tour di Nibali. Dicevo che al momento ha il Tour sulle spalle in tutti i sensi. A queste spalle apparentemente gracili, invece estremamente forti e resistenti. Tra poco lo stiamo aspettando, siamo qua al suo albergo, tra circa un quarto d'ora, 20 minuti inizierà la conferenza stampa, è pieno di giornalisti internazionali di tutto il mondo, televisioni tedesche, televisioni belghe, televisioni francesi, italiane, americane, non manca nessuno, televisione logicamente kazake anche, perché ricordiamo che Vincenzo Nibali corre per l'Astana, che è praticamente la nazionale della Kazakistan. Astana in kazako vuol dire capitale, e tutto sta andando per il meglio, però il cammino è ancora lungo. Credo che questo lo ripeterà. Sì, lo ripeterà come un mantra. Vincenzo. Esatto, ma non per puro scaramanzia, ma perché è così, perché l'abbiamo visto in 10 giorni, al primo giorno, prima tappa, la tappa che finiva sotto il balcone dove abita la mamma di Mark Cavendish, è caduto per terra, ritirato, poi si è ritirato in dislec. Sì, è un tour particolarmente segnato dagli episodi e anche dalle sfortune. Ieri è sembrato che Nibali abbia cercato a tutti i costi il numero, soprattutto dopo la caduta di Contador, quasi per mettere a tacere chi avrebbe detto senza Froome e Contador è troppo facile vincerlo. È una sensazione corretta? No, io non credo che lui abbia voluto mettere il sigillo ieri per questa ragione, perché non la conosceva neanche, perché era in corsa. In realtà lui ha voluto mettere il sigillo per quello che si è detto il giorno prima, che alcuni avevano mosso la critica alla Stana e a Nibali di aver lasciato a cuor leggero la maglia gialla per un giorno a Tony Gallopin. Invece così non era, perché sapeva, per chi segue il ciclismo sa chi è Tony Gallopin, cosa può fare e dove può arrivare. Non ci si doveva assolutamente massacrare e non doveva massacrare una squadra di fatica per andare a prendere una maglia, che poteva comodamente, come infatti è avvenuto, comodamente tra virgolette, andare a riprenderlo il giorno dopo. E quindi il suo gesto è stato soprattutto per quello, perché lui ha letto al mattino, gli hanno riferito tantissime critiche sul fatto che lui non ci avrebbe tenuto la maglia gialla, che non si lascia una maglia quando la si ha, che è stato quasi un gesto irriverente nei confronti del simbolo ciclistico più importante che, del mondo. Che non è l'unico, eventualmente Vincenzo Nibali, anche ad aver fatto questa scelta, che è una scelta tattica assolutamente legittima, Pierre. Cioè l'idea di non tenersi sulle spalle, di non caricarsi della responsabilità e anche del lavoro di dover difendere una maglia gialla. Ti giro il paragone che è scritto oggi sul Corriere dello Sport, dove scrivono che Nibali entusiasma perché è un po' Valentino Rossi e un po' Zeman, cioè disposto anche a rischiare di perdere pur di vincere alla sua maniera. Guarda, Nibali è un corridore non a par giù dalla bicicletta, estremamente calmo, appaccato in bicicletta, si fa veramente trasportare dal sacro fuoco. È un corridore che ama sorprendere e sorprendersi, ama andare a trovare il gesto atletico che possa rimanere nella memoria collettiva, ma soprattutto che lo diverta. Lui si vuole divertire. Spesso è stato anche criticato perché 3-4 anni fa, quando era più giovane, più inesperto, quando stava studiando da grande, ha anche buttato via tante corse per la sua condotta di gara un po' sconclusionata, cioè rischiando anche al di là di quello che potrebbe tatticamente essere intelligente fare. Però con la maturità sta diventando un corridore completo. Con la maturità, il corridore completo lo è sempre stato, un corridore di grande resistenza, un corridore lucido che comincia anche a capire un po' qual è il momento giusto per, come dicono loro, sgasare quando bisogna stare un po' tranquilli. Però lui la voglia di sgasare la Valentino Rossi, o comunque anche di rischiare di perdere, però lasciando un bel ricordo di sé, questo ce l'ha nel continua suo DNA. Quindi la vedremo magari anche nei prossimi 10 giorni, quelli che portano a Parigi. Grazie per Augusto, a domani. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie, traffico. Sì, perché pensavo alla mia bimba, perché mia moglie mi dice che tutti i giorni mi guarda in TV. E quando sono lì che parlo davanti alla TV, lei sta in silenzio e guarda tutta con gli occhioni. Tutti convocati. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United. Glory, glory, Man United, as the Reds go marching on, on, on. Welcome to Old Trafford, it's the bitter of our dreams, the power and the glory of the Shepherd and the sing. The Busby boys will take the pitch to matching at the feet, as the Reds go marching on, on, on. Glory, glory, Man United. Oh, io aspetto il giorno in cui i pubblicitari italiani riusciranno ad arrivare a queste vette. Questo è il video promo del Manchester United, che cambia sponsor quest'anno dopo tanti anni, e quindi ha voluto fare questo video celebrativo dove ripercorre un po' la sua storia, tutte le sue stelle. Manchester United, che oggi è su tutte le pagine dei giornali con questo accordo mostruoso con l'Adidas da oltre 90 milioni di euro a stagione per i prossimi 10 anni. 800 24 00 24, in tanti hanno scritto, ci sono dibattiti, ma come, noi valiamo un quarto, un quinto, addirittura ci sono club italiani di prima fascia che prendono un ventesimo dallo sponsor tecnico di quanto prenderà il Manchester United. E allora noi abbiamo convocato Marco Belinazzo, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, a me la cosa che ha colpito è che anche il Real Madrid, che non è il nostro Napoli, la nostra Roma, con i nostri problemi perché non ci sono gli stadi di proprietà eccetera eccetera, prende un terzo del Manchester United. Da qualche parte c'è un errore. C'è un errore fino a un certo punto, perché l'aspetto fondamentale di questo accordo è quello legato alla tifoseria nel mondo. Il Manchester United in questi anni ha fatto un lavoro molto semplice di profilatura dei propri tifosi, cioè oltre ad aprire uffici in Asia e quindi ad avere un contatto diretto con il territorio anche attraverso il social network, il Manchester United conosce quelli che sono i propri tifosi. Ora ci sono alcune statistiche davvero diciamo imbarazzanti e poco credibili, sì, che 700 parlano... milioni di tifosi, sì, in tutto il mondo. Vorrebbe dire che un abitante della terra su 10, bambini compresi, tifa Manchester United. A quelle non crede, ma però... parliamo comunque di 200-300 milioni di tifosi. E ad un pubblico così ampio si rivolge evidentemente uno sponsor tecnico come l'Adidas, che oltre ad aver trionfato nella finale mondiale, perché aveva entrambe le squadre, ora di fatto domina anche la classifica delle sponsorizzazioni per club. Poi bisognerebbe andarla a vedere questo contratto per capire ad esempio se il Manchester ha ceduto anche la parte del merchandising, delle royalties, e quindi se ogni maglietta con il simbolo incassa Adidas, tutto Adidas, ecco, oppure va qualcosa anche al Manchester. Sì, però restano dei numeri che sono altissimi. Ne diamo qualcuno delle società italiane. Lasciamo stare, abbiamo detto Real Madrid poco sopra i 30 milioni e quindi stiamo comunque a un terzo circa. Juventus dal 2015-2016 29 milioni sempre con l'Adidas, Milan 27 milioni, Inter appena rinnovato con la Nike 18 milioni, Napoli 7 con la Macron e Roma 4 milioni di euro. 4, siamo a un ventesimo esatto. Più alcuni bonus nel caso della Roma, si può arrivare insomma, sì, a 6 o 7 milioni. Una mancia. No, è chiaro che siamo su pianeti completamente diversi, lo raccontiamo da mesi, da anni, quando parliamo di un gap economico oltre che sportivo che si sta aprendo, che si è aperto tra l'Italia e il resto del mondo. Parliamo poi anche di questo. È chiaro che il Manchester United è un esempio diciamo quasi irraggiungibile, perché teniamo conto che l'anno prossimo lo stesso Manchester United avrà come sponsor Chevrolet, forse un altro marchio comunque della General Motors, ha siglato questo accordo 4-5 anni fa, quindi indipendentemente dalle vittorie che sarebbero meno dal arrivate, dal fatto che non sarà nemmeno in Europa League, esattamente, che non interessa, 60 milioni all'anno. Ora, facendo i conti della serva, 60 più 90 fanno 150 milioni, quindi quei pochi centimetri quadrati della maglia del Manchester valgono 150 milioni. Che è praticamente quasi il fatturato dell'Inter nell'ultimo bilancio, questo per dare, e non stiamo parlando di diritti TV e di aggiungere tutto il resto, lo stadio, tutto il resto che si può aggiungere. Io credo poi, Marco, che da domani ci sarà la fila fuori dalle sedi dell'Adidas, della Nike, di tanti dirigenti che andranno probabilmente a tentare di ridiscutere i loro accordi. Beh, c'è da dire tra l'altro che fino a qualche mese fa Nike sembrava in procinto di rinnovare il proprio accordo con il Manchester, e c'era una base di trattativa intorno ai 70 milioni che già sarebbe stata clamorosa. È arrivato Adidas, ha sparigliato il campo, ci sarà ora da chiedere cosa farà la Nike, perché per esempio la Nike aveva Juventus in Italia, l'ha persa e quindi in molti casi si sta ridiscutendo, ha preso la Roma, forse potrebbe prendere il Napoli tra qualche anno. Le trattative con De Laurentiis non sono mai semplici, ma è chiaro che arrivare a quelle cifre sarà impossibile, nemmeno diciamo a percentuali, intorno al 20-30% di quelle cifre che prende. Intanto noi andiamo avanti a discutere sul prossimo presidente della federazione, sul prossimo commissario tecnico. Adesso c'è il mitologico modello tedesco da inseguire. Non so se hai letto ieri Barbara Berlusconi, che ha detto hanno vinto, sono bravi, non viene dal nulla questo successo, ma loro hanno avuto il coraggio di cambiare progetti e soprattutto uomini, cosa che credo a metà agosto non capiterà da noi. Date le premesse, penso nemmeno a settembre-ottobre. Il problema è che in Germania a un certo punto si è resi conto che non si poteva proseguire su un certo modello di sviluppo. C'è stata un'alleanza tra federazione e club, c'è stato un investimento per esempio sulle accademie di oltre 500 milioni in questi anni. Ogni club ha la sua accademia, ci sono le accademie federali, c'è tutto un sistema per cui i grandi club fanno da hub territoriale per le piccole scuole calcio, e questo fa sì che tutti i più bravi calciatori arrivino ai club migliori. Tra l'altro è stata favorita, come dire, l'integrazione, è stata velocizzata la procedura per integrare i giovani calciatori nati in Germania ma magari non da genitori tedeschi. Questo ha portato, diciamo, a creare un gruppo che non avrà delle star, non avrà il Maradona o il Messi, ex Messi, sì, però intanto si turno. È portato a casa il mondiale. Oggi 500.000 di tedeschi in questi minuti sta festeggiando la Germania alla porta di Brandeburgo a Berlino, e c'è l'idea che comunque questo è un ciclo destinato a non finire. Poi al di là dei progetti c'è anche quella cifra lì che loro hanno speso in 10 anni, però quella cifra, Giovanni, che forse è fuori portata, forse sì, è fuori portata. Fuori, io non so se l'Italia può pensare di investire quei soldi su accademia, al di là che ci sia o meno un progetto. Il problema è che manca il progetto, quindi se non hai il progetto è difficile anche capire se hai le risorse. Detto questo, quel progetto lì si è accompagnato poi all'organizzazione dei mondiali, quindi agli investimenti sugli stadi. Questo ha comportato il fatto che la Bundesliga è diventato in pochi anni, dal terzo campionato europeo, il secondo, con un fatturato ormai di oltre 2 miliardi, con un equilibrio finanziario, lo sai benissimo, sì, invidiabile. Invidiabile, e peraltro, diciamo, producendo giovani e non avendo bisogno poi di importare stranieri se non grandi giocatori. Sì, 800 24 00 24. Poi c'è l'Atletico Madrid che fa una stagione come l'ultima e per fortuna ci tiene ancorati all'idea che il calcio sia uno sport e non un gioco di fatturati, e quindi ci sia la possibilità di vincere anche senza questi grandissimi numeri. Poi c'è che il Manchester United l'anno prossimo non farà nemmeno l'Europa League, perché alla fine giocano in 11, e quindi insomma noi possiamo anche continuare a seguire lo sport e il calcio sperando anche l'anno prossimo di vedere qualcosa che esca dalla classifica semplice e nuda fatta dai numeri e dai bilanci. 800 24 00 24. Antonio da Pescara. Antonio. Sì, salve, buonasera. Prego. Una gentilezza, io vi chiedevo appunto cosa si farà per i vivai italiani. Per le primavere delle squadre italiane attualmente giocano, se ci fate caso, con 4, 5, 6 stranieri. Qui è ora che incomincia anche la federazione a detassare le squadre che vogliono acquistare giocatori ragazzi italiani. Sì, il problema è che nessuno. Basterebbe anche rendere semplicemente più semplice il mercato degli italiani, cosa che si è tentato di fare in questi ultimi mesi. Fino all'anno scorso c'erano anche delle difficoltà oggettive, sono questioni tecniche, di fideiussioni, di transazioni, però alle volte era veramente molto più conveniente andare all'estero. Marco, no. Certo, perché sì, io ho a che fare delle volte per lavoro con delle società italiane, alcune piccoline della mia zona, ma molte volte questi acquistano all'estero perché tra l'altro possono mettere a bilancio delle cifre che sono totalmente diverse, mentre qui ragazzi di 20 anni, se lei ci fa caso, ci sono ragazzi di 17 anni in giro che sanno giocare divinamente a calcio, a 20 anni nessuno più li vede perché giocano con la squadretta della vicino casa e... È quello che in Germania invece hanno fatto da 8 anni a sta parte. Io credo che chi giochi divinamente comunque poi alla fine arriva, Marco. Però c'è questo problema di mancanza di una via maestra per far arrivare questi giocatori in prima squadra, e c'è un problema di investimenti. I club italiani investono tra il 2 e il 3%, salvo qualche eccezione, del fatturato nei vivai. E peraltro c'è anche un problema proprio di allenamento. Io parlavo con dei tecnici di recente di squadre primavera che si confrontavano per esempio nella Champions League dei giovani, e c'è un problema proprio pratico, perché a quanto pare i giocatori italiani nella primavera si allenano e corrono la metà esatto di quanto corrono e si allenano i giovani giocatori delle primavere in altri paesi. È evidente che poi quei giocatori a 18 anni, 19 anni sono già pronti per la prima squadra e vengono schierati in prima squadra, i nostri invece vengono considerati ancora come ragazzini, ma anche perché probabilmente sotto il profilo atletico, tecnico e tattico lo sono, sì, ancora. Poi ci sono scuole di pensiero, c'è chi dice che facciamo troppa tattica, troppa corsa, troppo poca tecnica, che gli altri semplicemente li fanno giocare, li fanno crescere. La verità è che poi ci innamoriamo anche di mode, perché 10 anni fa dovevamo essere tutti francesi multietnici, 5 anni fa la Spagna era il riferimento, adesso c'è il modello tedesco, magari fra 5 anni ne scopriamo un altro. Tutti convocati. Che Vinicius si prepara a tiro, c'è una grande conclusione, Müller ancora in area di rigore, la lascia lì, Klose! Miro Klose, 2-0 per la Germania, porta chiusa in faccia al Brasile, record storico di gol nel campionato del mondo per Miro Klose, nessuno mai nella storia come lui. Cerca il traversone, buono Gazze! Gazze! Germania in vantaggio! Germania in vantaggio all'ottavo! Proprio il nuovo entrato Mario Gazze! Rompe l'equilibrio come Iniesta 4 anni fa! Questa è la colonna sonora dell'estate, carissimo Marco Belinazzo, Umpa Tetere, che poi è la colonna sonora, è il nostro, il loro po del 2006. Il nostro era molto meglio. No, ma perché Umpa Tetere abbiamo scoperto con Franco Piantarida essere il canto di carnevale tedesco, ultimi coriandoli di questo mondiale che è finito e che ci lascia orfani di calcio vero per un po', però c'è il calcio mercato, oggi ha parlato Aurelio De Laurentiis, poi ve lo facciamo sentire. Ultimi coriandoli del mondiale, la Germania sta festeggiando, 500.000 di persone alla porta di Brandeburgo, beati loro. Primo a scendere con la coppa dall'aereo è stato il capitano Lahm, si sono presentati con i pantaloncini corti, quindi possiamo dire che i tedeschi, in quanto a stile, moda e anche un po' musica, non sono campioni del mondo. Assolutamente no, potranno almeno da questo punto di vista venire in Italia forse a imparare qualcosa, e magari noi impareremo un po' meglio, insomma, a gestire il nostro calcio guardando al loro esempio. Intanto continua a essere aperto il dibattito su Messi e sul suo pallone d'oro mondiale. Magari vi faccio sentire Blatter, se c'è. No, non c'è. Comunque Blatter ha detto: sono sorpreso che abbiano dato il pallone d'oro mondiale. Poi invece Müller, che è insomma la stella tedesca, senti come ha risposto quando gli hanno chiesto. You have to speak in Bavarian now. No, I don't speak Bavarian, but you know, congratulations for this World Cup. You were this close to being, you know, you're the top striker of the whole World Championship. How does that make you feel? Das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister sind wir, den Pott haben wir. Den scheiß goldenen Schuh kannst du hinter den Ohren schmieren. Oh, tu che conosci benissimo il tedesco. Su di giri lo era. Ha detto: non me ne frega assolutamente nulla di quei premi individuali, se lo possono mettere su per il più o meno, per il di dietro. Tu sei del partito che Messi ha fallito la sua carriera fallendo la finale? No, credo di no, però è chiaro che c'è una involuzione, credo, inattesa e inaspettabile per quel che riguarda anche il Messi uomo. Cioè, è arrivato a questo appuntamento dopo una stagione che tutti conosciamo, difficile, piena di infortuni, con vicissitudini anche legali e fiscali, però quelle prime 4 partite ci avevano un po' illuso che potesse essere la volta di Messi. Poi sono arrivate le partite che contavano ed è cambiato molto, non tutto, ma è cambiato molto. L'ombra di Maradona probabilmente. Per la gioia dei napoletani, che così possono continuare ad affermare che Maradona è meglio di Messi e non solo di Pelé. Bruno da Reggio Emilia, Bruno. Buongiorno, grazie di avermi chiamato. Volevo una domanda breve su Balotelli. La mia idea è quella che non è un centravanti, dovrebbe giocare fuori aura e potrebbe dare la metà di quello che dà Ronaldo nel Barcellona. Cosa ne pensa? Penso che sarebbe sufficiente per Balotelli giocare, nel senso di giocare per 90 minuti. Poi il dibattito sul suo ruolo è aperto. Lei sa benissimo che Berlusconi e anche Prandelli, prima di andare al Mondiale, avevano un'idea differente. Io dico solo che quando Balotelli ha iniziato la sua carriera ad alto livello e in parte anche il suo percorso nelle giovanili, non era una prima punta. Giocava spesso da esterno. Lo stesso Mancini, quando l'ha lanciato nell'Inter, lo faceva giocare da esterno e addirittura aveva azzardato un paragone con Cristiano Ronaldo, che allora giocava alla destra nel Manchester United. Ti faccio sentire il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, oggi alla presentazione di uno sponsor. Noi ci abbiamo, prima degli ultimi 4 giorni di mercato, da affrontare andate e ritorno i preliminari di Champions. Quindi non è che andremo ai preliminari di Champions non preparati e sguarniti. Quindi tu stai tranquillo che da qui a qualche giorno o a qualche settimana troverai quelle ciliegine sulla torta che avevamo in qualche modo promesso a livello di ruoli. Se poi sono delle ciliegie modenesi o di come si chiama quel posto, di Vignola, eccetera, lo vedremo. Pierluigi, buongiorno, come va? Benissimo. Vignola, ti abbiamo svegliato con De Laurentiis. Si balla in Brasile l'umpa umpa teteré? No, non ne hai notizie? Non ne ho notizie, ma sai, io faccio una vita ritirata, quindi queste cose mi sfuggono. È meraviglioso, è la colonna sonora della festa tedesca, magari te la facciamo sentire se riusciamo, è veramente meravigliosa. Cosa si dice lì, se si dice ancora oggi qualcosa del mondiale o avete chiuso tutto, valigie, insomma vi state soltanto preparando a tornare a casa? Beh, la sensazione è quella, insomma, il pericolo è scampato per i brasiliani, che non avrebbero accettato tanto felicemente una tragedia sportiva come la vittoria dell'Argentina, finita 0-0 alla fine, insomma, tra loro e gli argentini più o meno, anche se sicuramente non c'è partita fra le figure che hanno fatto le due squadre. Si comincia a pensare alle elezioni, si comincia a pensare soprattutto a Rio de Janeiro, alle Olimpiadi, tra due anni, mancano 760 giorni, e la città è ancora molto in ritardo, insomma. Rio de Janeiro, che abbiamo visto in questo 2014, è ancora tutto un cantiere, metropolitane, strade, ponti, quindi insomma di problemi ce ne sono parecchi. E per quanto riguarda il futuro, c'è il dopo Scolari, c'è questa candidatura di Tite. Ma è vero che c'è anche Leonardo? Di Leonardo, c'è questa suggestione di Leonardo. Beh, sì, ma è una suggestione o è qualcosa di concreto? Beh, è una suggestione, per quello che so io è una suggestione, però insomma, sai, quando cominci a sentire da varie parti. Poi ci starebbe, insomma, nel senso che comunque alla fine è certamente un nome spendibile, e quindi perché no, anche se devo dire che Tite sicuramente, che noi in Italia magari conosciamo poco, ma insomma è stato un allenatore che ha fatto un ciclo importante, 3 anni col Corinthians, dal 2010 al 2013, ha vinto tutto, ha vinto il Brasileirão, ha vinto la Coppa Libertadores, ha vinto il Mondiale per Club contro il Chelsea di Benitez, sicuramente convocherebbe Castan, ecco, visto che ha avuto in squadra il Corinthians, il favorito è lui. Mi sembra che nelle ultime ore, insomma, la CBF, la federazione brasiliana, si sia piegata un po' alla volontà popolare. José Maria Marin, che è il presidente, ha capito, e tra l'altro darà un'intervista dopodomani ci sarà una conferenza stampa, e quindi darà qualche... E spiegherà cosa sarà del Brasile. Forse addirittura l'annuncio. Assolutamente. Poi si discute di Messi, lo stiamo facendo ancora anche noi. Io sono d'accordo con quello che ha detto Mourinho, cioè era facile rispettarlo quando vinceva, non ha bisogno di un mondiale fatto da protagonista per essere definito grande. C'è anche chi ci accusa di aver esagerato dicendo Messi ha fallito la sua carriera. No, ma non lo stiamo dicendo noi, è la sintesi brutale. È la sintesi brutale dei giudizi anche corrosivi, Pier, che sono stati dati su Messi. Ma è quello che dicevamo giovedì e venerdì, e che è, se vuoi, la schiavitù del calciatore, la frustrazione del calciatore all'interno di vite assolutamente agiate, bellissime, meravigliose, piene di soldi, macchine, donne, eccetera. Però questa cosa qui ce l'hanno solo loro, perché insomma i generali, i politici, gli scrittori, gli artisti, l'immortalità se la guadagnano in una serie continua di produzioni, di atti creativi, di cose che fanno, non si giocano tutto in 90 minuti e poi sono abbastanza padroni del loro destino. Messi non lo è, Messi se poteva giocare peggio di come ha giocato l'altro giorno, ma se Higuaín metteva dentro quel pallone nel primo tempo, forse oggi sarebbe stato il campione del mondo e sarebbe stato ricordato agli argentini in una maniera diversa per i 4 gol che ha fatto nella prima fase di questo mondiale e per la sua carriera, che è comunque strepitosa. Quindi questa è la sintesi brutale, sono d'accordo con te, è assolutamente brutale, è assolutamente terribile. Poi insomma non cambia molto nella cifra della carriera di un 27enne che ha fatto 365 gol, ha vinto 6 volte il campionato spagnolo, ha fatto 92 gol nell'anno solare 2012. Cioè, non stiamo parlando di, non è un giocatore ridimensionato, è il ricordo e la percezione che si avrà di lui tra 100 anni che rischia di essere in qualche modo ridimensionato. Tutto qui. È quel paragone con Maradona. È quel paragone con Maradona. Ma secondo me lui non se ne frega. Oh, intanto la FIFA e l'Equipe l'hanno tenuto fuori dalla squadra dei migliori 11 di questo mondiale. Giustamente. Sì, ma giustissimamente. Lui è tornato in Argentina, hanno incontrato la presidente. Ti faccio sentire Messi. Noi soprattutto traerle la Coppa e poter disfrutarla, lo intentamos, lo dimos todo y no se pudo. Pero creo que a pesar de eso le dimos una gran alegría al país, habiendo llegado a esta final, habiendo disputado de cara a cara sin regalarle nada al rival. Nos fuimos de acá con mucha duda por parte de la gente, del periodismo, y nosotros nos hicimos más fuerte que nunca. Se armó un grupo espectacular, muy unido, y eso nos llevó hasta el último partido. Seguiremo trabajando y esperemos darle más alegría al país. Sì, chissà se fra 4 anni avrà ancora un'occasione Messi, Marco Bellinazzo, o se il suo mondiale era questo, occasione passata e carriera segnata per sempre. Io sostengo che forse sia arrivato il momento per Messi per cambiare aria, per andare via da Barcellona. Difficile, con 20 milioni all'anno di stipendio. Sì, però sai, a un certo punto è un giocatore che sembra aver chiuso anche un ciclo, che è quello che lo ha reso il più grande del mondo in Spagna, e quindi chissà, mettersi alla prova in un altro contesto, anche perché ora avrà l'ombra di Neymar che si allarga in squadra, ci sarà Suarez, insomma sarà sempre più difficile che si ritagli un ruolo, soprattutto se le condizioni di forma resteranno quelle di quest'anno. Traffico. Giocando come squadra, senza comprare giocatori per tanto soldi, ha fatto un anno spettacolare. Credo che quello deve essere il nostro segno, no? Seguire quello che ha fatto l'Atletico Madrid. Beppe vuol fare con voi una squadra che io ammiro, che è l'Atletico Madrid, che ha un allenatore come Beppe, e è la strada che non voglio percorrere, perché abbiamo scelto soprattutto, e rimarranno con noi, gli uomini. E voi siete una squadra di uomini che noi vogliamo tenere. In bocca al lupo a tutti voi. Il divino Johnny, come ti chiamano i tifosi. È vero, il divino Jonathan. Così chi piace chiamare tutti i tifosi, li ringrazio per questo affetto a loro. Oggi parliamo dei più grandi talenti della storia del calcio mondiale. Jonathan, più conosciuto come il divino Johnny. Il divino Johnny. Lui è un mito, il divino Johnny, carissimo Pier. Secondo me è un mito anche il modello dell'Atletico Madrid. Giustamente qualcuno ha scritto: tutte le squadre che non hanno neanche un euro da spendere quest'anno hanno la scusa di parlare, Marco, modello dell'Atletico Madrid. Attenzione, perché dietro l'Atletico Madrid, tutti lo sanno, c'è un fondo di investimento che si chiama Doyen, e che, come dire, foraggia in cambio di percentuali dei cartellini l'organico dei Conchoneros, e quindi garantisce anche che certi giocatori ci siano. Poi chiaramente c'è la magia del calcio, c'è Simeone, c'è tutto quello che l'Atletico ha fatto sul campo, ma attenzione alla favola dei poveri e belli, insomma. Sì, intanto Pier, ci hanno ricordato che a Vignola fanno i salumi, mentre per le ciliegie è meglio rivolgersi insomma da altre parti. Ci hanno anche girato la traduzione esatta dal bavarese di quello che ha detto Müller, però lasciamo stare perché non è il massimo di eleganza. Pier, Edoardo da Roma. Edoardo. Sì, salve. Eccoci. La questione che volevo porre alla vostra attenzione era questa, visto che parlavate prima di queste grandi multinazionali, Nike, Adidas, che hanno cominciato ad investire grandi quantità di denaro sugli sponsor tecnici. Io durante i mondiali ho notato che invece, per quanto riguarda l'advertising, quindi proprio le campagne pubblicitarie portate avanti da queste stesse multinazionali, gli investimenti sembrano quasi essere stati inesistenti. Mi ricordo faraoniche campagne pubblicitarie della Nike e precedenti mondiali o dell'Adidas stessa con testimonial a pioggia, insomma, cosa che invece quest'anno non ho assolutamente visto. Mi sembrava uno strano cambio di rotta, volevo sapere cosa. Ma io so che la domanda che in tanti si fanno è se poi a un colosso tipo l'Adidas convenga davvero spendere un miliardo di euro quasi in 10 anni. Cioè, se ci sia un ritorno al di là d'immagine anche di vendite, di soldi. Indubbiamente sì, perché il calcio, in particolare lo sport, sono diventati veicoli principali per tutte le campagne pubblicitarie e purtroppo ne risentono i media tradizionali, come vediamo. Tra l'altro in Brasile Adidas era lo sponsor principale, quindi in qualche modo non aveva bisogno di fare campagne faraoniche, la Nike era bloccata proprio dal monopolio Adidas sul mondiale, che durerà anche per le prossime edizioni. Sì, intanto ci dicono, cioè, scrive un altro amico, a Vignola ci sono le ciliegie, chi dice che fanno i salami è un somaro. Approfondiremo. Sì, è il tema un po' del giorno. No, è il tema del giorno. Ma dov'è Vignola? Dov'è Vignola? Di Modena. Ah, Modena. Mi sento abbastanza sereno, direi provincia di Modena, senza alcun dubbio. Spero di non sbagliarmi per qualche chilometro, magari la Giulia, ma insomma direi che è Modena. Mi sembra che la proporzione economica in questo momento stia superando la proporzione tecnica tra il calcio inglese e il calcio italiano. La notizia, l'avrete parlato per mezz'ora, del Manchester United è stupefacente. Ed è la dimostrazione del fatto di quanto il calcio sia cambiato, di quanto è importante riuscire a fare sistema, avere gli stadi di proprietà, avere dei negozi che prendono il merchandising all'interno degli stadi, perché se non fai questo puoi fare anche delle imprese isolate a livello sportivo, puoi anche tornare a vincere in Europa, perché insomma quello è un fatto generazionale, abbiamo dei giocatori, non è che sia impossibile adesso da qui a 10 anni che non vinceremo mai più una Champions, tanto per capirci. Però non fai sistema. L'ultima storia italiana che ha vinto la Champions League, l'Inter, nel 2010, non è riuscita a fare, Benigno penso lo sa confermare, non è riuscita a sfruttare fino in fondo quella vittoria sportiva per riuscire a crescere a livello appunto di spalle larghe, di una società che riesce ad allargare la sua base di utenti in tutto il mondo, a crescere e a fare fatturato. Sì, che poi è anche l'autocritica che si è fatto Moratti cedendo a Tuir, cioè di non essere stato capace di mettere a... Oh, a proposito di stadi di proprietà, 30 secondi, Marco Bellinazzo, cosa succede allo stadio della Roma? Beh, c'è stata questa precisazione di Zanzi che ha detto che lo stadio sarà della Roma. In realtà lo stadio, per quello che c'è scritto nel prospetto informativo, sarà della società tecnicamente che controlla la Roma, che è la società di Pallotta e dei soci americani. Ora, è chiaro che fanno parte dello stesso gruppo. Questa non è una garanzia per il futuro. Non è una garanzia per il futuro e comunque la Roma dovrà pagare il canone per giocare in quello stadio e quindi i ricavi della società in quanto tale saranno minori. In ogni caso, qualora dovesse esserci poi un cambio di proprietario, un cambio di maggioranza, si dovrà andare a trattare con Pallotta per avere le chiavi dello stadio. È tutto qui. Sì, intanto ci scrivono che è in provincia di Modena e che si chiamano Duroni, che sono le ciliegie più famose e più buone d'Italia. Manuel da Rimini, Manuel. Sì, buongiorno. Mi prego. Pardo, vedo che sta tornando di moda il 4-3-3, no? Ne parla molto Inzaghi, vuole giocare, impostare da subito la propria squadra su questo, è tornato Zeman a Cagliari, Garcia l'anno scorso ha fatto forse il miglior calcio in Italia con questo modulo e poi è un modulo a me caro perché mi ci sono laureato 3 ore fa con una laurea su questo modulo. Su 4-3-3. Complimenti. Grazie. Quindi volevo chiedere a Pierre se a lui piace questo modulo, lo ritiene uno dei più validi. Ma laurea in cosa, Manuel? Scienze motorie. Pier, ti piace il 4-3-3? Mi piace il 4-3-3, poi come tutti i moduli puoi declinare, la lezione ce la puoi fare tu meglio di noi, per esempio dal comportamento dei due esterni offensivi, più o meno liberi dai compiti di marcatura, cambia un po' il tipo di approccio che hai. Devo dire che a me piace anche il 4-2-3-1, nel senso mi piace e mi sembra la tendenza di questi ultimi anni quella di un calcio offensivo, un calcio propositivo, senza il quale è difficile vincere anche questo mondiale, comunque l'ha dimostrato, la Germania in finale ha cominciato col 4-3-3 e poi è cambiato. Dopo l'infortunio è passata al 4-2-3-1, ma di fatto quel 4-2-3-1 non era una mossa difensiva, tanto è vero che è stato Schürrle, è uscito un centrocampista e è stato un attaccante, il modo per far giocare quattro giocatori spiccatamente offensivi e chiedere un sacrificio agli altri due centrocampisti in una fase di copertura, che è quello che hanno fatto poi in maniera molto molto buona, direi eccezionale, Schweinsteiger e Kroos. Quindi mi piace assolutamente. Mi sembra che ci sia una delle volte una discussione un po' ideologica su difesa 3 e difesa 4, come se fosse veramente il patto della NATO contro il patto di Varsavia. E poi soprattutto se una si adatta o no per vincere in Europa, nel mondo, in Italia, o insomma se ci siano, che poi la differenza la fanno la qualità degli interpreti, Pierre, e credo che questo sia il punto di partenza. Oh Pierre, abbiamo finito, sai che siamo solo a un'ora, sarà così per tutta l'estate. A domani Pierre. Ciao. Saluto anche Marco Bellinazzo, ciao Marco. Ciao Giovanni, a presto. Un ringraziamento a Franco Piantanini, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltritti in regia, ciao, a domani.